potuto scegliere, ne ho preferiti due. Uno è Giovanni Codagnello, piacentino. L'altro è Fra Salimbeni. Molto noto Fra Salimbeni, forse un po' meno noto, ma certo un personaggio di prim'ordine, anche Giovanni Codagnello. Ho scelto questi due per poterne dare dei brani più lunghi e non disperdere il discorso fra tanti piccoli frammenti. L'interesse di Giovanni Codagnello, che era notaio e molto ben informato di quello che succedeva, era successo nella sua città, sta perché ha voluto anche scrivere un componimento ritmico che ci parla della formazione della Lega Lombarda e dei primi contatti con Federico Barbarossa. E noi vediamo che questa formazione della Lega Lombarda qui se ne parla in una maniera, direi, abbastanza evasiva, abbastanza elusiva, senza nessunissima precisazione. Il ritmo comincia, come vedete, con una invocazione religiosa: invocato Gesù Cristo, dicto brevi superisto, sopra questo breve detto, cioè questa invocazione a Gesù Cristo, quaedam fera, ut gesserunt cremonensis, ac fecerunt suis conseguacibus. Si comincia col voler parlare immediatamente dei cremonesi e dell'iniziativa politica che i cremonesi hanno preso nei confronti dell'imperatore. E si afferma che i cremonenses, cum papia, insieme con i pavesi, quos, nunc, odit Lombardia, e ora tutta la Lombardia li odia, affectabant pretaxatam, cioè desideravano la predetta Lombardia, che fosse data agli alemanni, che la potessero distruggere. Un'accusa immediata ai cremonesi e ai pavesi, tradizionali alleati e fedeli dell'imperatore, di aver voluto abbandonare alle mani dei tedeschi la Lombardia. E per Lombardia qui che cosa si intende? Si intende una regione o si intende invece la Lega Lombarda? Come pare di poter capire da altri testi, soprattutto anche direi dai testi papali, il quale a un certo punto veramente parla dei tedeschi che volevano distruggere la Lombardia. La Lombardia sembra quasi identificarsi nel linguaggio politico del momento con la Lega. E questo che cosa hanno fatto? Quare gressum direxerunt, velud multi modo ferunt, ad immensa maiestatem obtinentem potestatem totius Apulie. Sono andati, hanno diretto i loro passi, come molti raccontano, verso la corte di Federico II, padrone adesso di tutta la Lombardia, da tutta la Puglia. Lombardiam pollicentes, ipsam quoque inducentes ut intrare Lombardorum sapientium virorum confines in proximo. Sono andati nell'Italia meridionale e hanno cercato di persuadere Federico, la maestà di Federico, perché venisse al più presto in Lombardia. Noi sappiamo benissimo, come già abbiamo detto, che la dieta di Cremona non è stata affatto sollecitata dai cremonesi, ma è stata concordata tra il Papa e l'imperatore per risolvere i problemi del momento e soprattutto per mettere in moto la crociata. Ma poiché era stata fissata a Cremona, ecco che le città nemiche di Cremona accusano i cremonesi di aver messo in moto tutto questo, di aver messo in moto questo avvenimento. Imperator hoc audito et confissus eo detto all'imperatore, udite queste parole, e confidando nelle parole dei cremonesi, mox incepit ad venire con furore suo ire, more teutonico. Venne, ha deciso di venire con tutto il furore della sua ira al modo dei tedeschi. Ora qui c'è un'allusione al fatto che Federico abbia voluto venire armato, ma che venisse con furore in quel momento non direi proprio di no. Qui c'è una interpretazione che confonde un po' le cose e che proietta Su questi primi passi di Federico proietta le esperienze molto più tarde. Sed Lombardi sono astuti, ed infatti svalve tutti e sono molto prudenti nell'agire, ragion per cui perpenderunt dolum quem machina verunt cremonenses perfidi, e hanno subito pesato l'inganno che era stato macchinato dai perfidi cremonesi. Quare mediolanenses, quorum pigri non sunt enses, ci sono tante frasi che sono dovute alla necessità ritmiche, la necessità di diversificazione, separati parmesanis, lasciando da parte i parmesani, i quali erano ancora fedeli dell'impero, si sono uniti ai marchesani, cioè agli abitanti della Marca, sociali federe, in un patto sociale. Istis addo placentinus, simulacque faintinus, et addendo brixiensis non escludam bononienses cum sint potentissimi. E qui c'è questo richiamo alla potenza dei bolognesi, perché in realtà il Bologna fra il 1220 e il 1270-74 è stata veramente una delle città più potenti della pianura padana, grazie anche alla ricchezza che a Bologna veniva fatta confluire dagli studenti che affluivano nella città molto numerosi. Bologna era ormai, controllava ormai praticamente tutta la Romagna. Multa sposta in non occupare civitate scomputare, potrei nominare molte altre città, neanche luoghi minori, ma il discorso sarebbe troppo lungo, per Codagnello, sarebbe troppo lungo anche per noi se lo volessimo integrare. Ipse, cioè l'imperatore, venit con furore, sed recessit con dolore. Qui vediamo che questa cosa è stata scritta dopo parecchio tempo e si può anche un giudizio. Magnam turit dizione, propter persuasione in cremonensium fatua. E magnam turit dizione, che cos'è questa dizione? Egli ha sopportato, si è fatto un gran parlare di tutto quello che gli ha detto per causa della persuasione dei fatui, quei fatui dei cremonesi. Egli partì e arrivò a Ravenna, quae fetentem habet venem, cioè che ha dell'acqua che puzza molto, acqua putidra, ibi pascoa celebravit, atque gentes congregavit, sicut ipse potit, e raccoglisse a Ravenna tutti quelli che poté. Poi qui con degli altri versi ci precisa qual è la data, 1226, e dopo aver precisato la data, et cumista gererentus, et unico dicerentus, bononienses nantimebant civitate muniebant omni fortitudine. E mentre avvenivano queste cose e dappertutto se ne parlava, i bolognesi, quali temevano, si sentivano in pericolo, hanno fortificato la città di nuove mura. E qui veramente ci risulta che è proprio in questo momento che Bologna rinforza le mura che erano già state, parzialmente tracciate e per ingrandire la vecchia cerchia, e la rinforzano proprio in questo momento di pericolo. Ad hoc dicam, quid fecerunt universis in luxerunt, ut deberent sertare et decenter decorare armis equis bellicis. Chi sia il soggetto di quelli in luxerunt? Non si sa, sono i rettori o sono i bolognesi che ingiungono agli altri di prepararsi e di raccogliere armi e cavalli da guerra. Sono probabilmente i rettori, ma i rettori, fra i quali i rettori bolognesi hanno, direi, una voce molto importante, perché Bologna è in una posizione chiave, controlla la via Emilia, cioè le comunicazioni est-ovest, ma controlla anche le comunicazioni nord-sud, cioè la via della Toscana e la via verso Ferrara. Hoc propositum habentes et nullo modo frangentes sinu per vellet transire non permitteretur ire sine magno pregio. E avendo questo proposito e non volendo rompere in nessun modo, se qualcuno avesse voluto passare, cioè l'imperatore, non gliel'avrebbero permesso senza una grande battaglia. Qui Vidit autem imperator tesaurorum cumulator, l'imperatore accumulatore di tesori. La ricchezza di Federico ha un certo peso nelle cronache. L'imperatore accumulatore di tesori, perché si sa che l'imperatore vuole rivendicare le regalie e vuol fare pagare i censi. Ci sono molte allusioni in questa espressione tesaurorum cumulator. Quod nequiret vi transire neque gente sconvenire in Cremona fatua, l'imperatore si rende conto che non può passare e che non può nemmeno far venire la gente in quella sciocca di Cremona. Iusit ergo civitates Lombardie potestate su transmitteret legatos armis equis preparatos ad sui presentia. Ordina che le città di Lombardia, che i podestà di Lombardia trasmettano dei legati con armi e cavalli alla sua presenza in Ravenna. Confesso che non capisco questo discorso delle armi e dei cavalli che dovevano essere condotti dai legati. Marchesani viros multus et Lombardi, iam prefultus e i Lombardi trasmiserunt tunc legatus, hanno mandato, intanto i marchesani hanno mandato molti uomini, i lombardi hanno mandato i legati che erano stati richiesti, sed non armis preparatus, sicut ipse iusserat. Li mandano, ma però si fermano, sappiamo, da maestro Tolosano a Faenza, non arrivano fino a Ravenna. Invece chi arriva armati? Fertur autem, si dice anche, quod permenses, cremonenses, papienses, deferentes, secum arma, accesserunt tunc ad arda civitatis mutine. Le città aderenti all'imperatore si armano, si raccolgono, ma non vanno oltre Modena. Che questi arrivino armati lo capisco, ma la richiesta di Federico che mandassero dei legati armati non capisco assolutamente a che cosa alluda e a che cosa si riferisca, ricordo dopo i tuoi lumi, se tu riesci a capirne qualcosa più di me. Tamen non preterierunt, nec transire presumpserunt, qui acquisque dubitabat ununquenque formidabita, formidabat civitas Bononia, d'accordo, da Modena per andare a Ravenna bisognava passare per Bologna. In quel momento però si muovono i veronesi. Dunque, veronensis civitas, cuius est magna probitas, quae lombardum upiebat statu, bene proibebat iter regis fili. E la città di Verona, di cui è grande la probità, la quale desiderava lombardum statum. Qui potrebbe sembrare ambiguo, potrebbe sembrare che Ravenna volesse avere lo stato della Lombardia, la potenza, il controllo della Lombardia, che ci fosse qui una proiezione della posizione particolare che ha Verona al tempo di Azzelino. Ma dobbiamo stare molto attenti perché questo stato non vuol dire affatto res publica, ma vuol dire condizione, vuol dire semplicemente che Verona voleva il prospero stato della Lombardia, ragion per cui chiude il passaggio della valle al figlio di Federico, proibebat iter regis figli. Qui magna manum militum, tamen non credo peditum, festinabat ultra ire atque patri subvenire in malo proposito. Non intendeva venire in soccorso del padre con cattivi propositi. Qui è un momento abbastanza interessante perché la valle dell'Adige è chiusa da Verona in maniera clamorosa. Da Trento, per scendere in Italia e raggiungere Federico, il giovane Enrico avrebbe potuto benissimo prendere una deviazione, seguire la valle del Brenta e venire fuori tranquillamente a Bassano. E poi di là raggiungere la via Postumia e raggiungere di là la via Emilia. Soltanto che in questo momento Ezzelino, che controllava lo sbocco della valle del Brenta, era ancora legato alla Lega. Non abbiamo notizie di apprestamenti difensivi di Ezzelino, ma anche quella strada era praticamente bloccata da un amico della Lega, nemico dell'imperatore. Nunc ad patrem redeamus, et denato dimittamus, lasciamo stare il figlio e ritorniamo a parlare al padre. de parlare del patro e diciamo che cosa egli ha fatto. Stetit ergo imperator, secularis legislator. Non c'entra molto questa osservazione che fa in questo momento il nostro buon Codagnello, questo richiamo all'imperatore come portatore della legge secolare, come lex animata in terra, ma è implicitamente un riconoscimento che l'impero, l'imperatore, è la fonte del diritto. Nel giorno del sommo Dio, cioè di giovedì, non di domenica, risulta che un giovedì, dalle parti di Ravenna, era ancora dalle parti di Ravenna. In ille dies sic credo et lectori veredo, come credo e come dico al lettore, qui a Iove nominatus sicut supra fui fatus, come sopra ho detto, è il giorno 7 di maggio. Una grande precisazione nelle date, e questa precisione nelle date in fondo ci dà il senso della esattezza delle informazioni. Die sequenti proximo, vera loquor de pessimo, per io nel giorno seguente, e dico la verità per quanto io sia un uomo da poco, in partibus faentie ut compleat nequitie requierit opera. Il giorno dopo raggiunse il ditone di Faenza per compiere la sua opera di nequizia. Gli ambasciatori se n'erano già andati. Poi prosegue il suo viaggio. E questo viaggio ci è raccontato non soltanto da Giovanni Codagnello, ma ci è anche raccontato dalla cronaca Reinhards Burgensis, che è la cronaca di un cappellano tedesco che era assente di Federico, che ci dà moltissimi particolari che qui non troviamo. Ci mostra quali e quante umiliazioni in fondo abbia subito Federico nel dovere fare queste lunghe diversioni per evitare le città che erano nemiche. Finalmente, con queste sue diversioni, arriviamo alla stoffa 36, arriva a Parma. Tunc rectores lombardorum et eorum sociorum statuerunt colloquium atque firmum consilium in valenti Mantua. Non soltanto hanno stabilito di fare un consiglio, di riunirsi a consiglio a Mantova, ma hanno anche messo, come già sappiamo da altre fonti, un grande spiegamento di forze per impedire che l'imperatore da Parma raggiungesse Cremona. Ma l'imperatore, qui il Papa manda degli ambasciatori. Gli sono stati chiesti da Federico, gli sono stati chiesti forse anche dalle stesse città, ma è forse anche un'iniziativa del Papa. Ad quod direxit nobilis et dimisit ignobilis illius di rinuntium qui domini vivencium sacra pago comprobat. Un modo un po' tortuoso per indicare il Papa, ma anche un'espressione che non riesco a capire molto bene, ad quod direxit nobiles et dimisit ignobiles. A che cosa si alluda? Confesso di non averlo capito bene e di avere molte perplessità. E andiamo pure avanti fino alla strofa 12, in cui si parla ancora di questo blocco della... no, 12, 42, in cui si parla ancora del blocco della Valle d'Adige, e passiamo alla strofa 44, et in urbe parmensium stetit, quid ebet regium decus abere rapitur, et illi non permittitur con sé male gesserat, incat diem ut credimus, in quo regnat Deus summus, qui mensis erat iuni tredecimus, o soci, quo burgum accelerat. E da Parma passa a Borgo San Donnino. Et cum filius videret, transitum quod non aberet, ad sum patrem redit, de retro conversus abit, urens, Trentum undique, e il figlio se ne ritorna vedendo che non può avere un valico verso il padre e dà fuoco a Trento. Tunc rectores se vocarunt de concordia trattando cum don cardinali domino imperatoris nuzio mercardie cura. E qui si accordano i rettori, si incontrano con nunzio, con il cardinale Corrado da Porto, che viene qui come un imperatore, un nunzio dell'imperatore, nella curia di Marcaria. E si presenta quasi questo cardinale che viene a trattare la pace, a fare proposto di pace, come un nunzio dell'imperatore, mentre in realtà è un legato papale. Qui è veramente una prova anche della diffidenza che si aveva contro tutto e contro tutti. Is liebus legatorum misit copiam suorum, ut ad eum accederent, at quesimul disserent urbes peritalis. In questi giorni venne mandata una gran coppia di legati e che andassero presso di lui e che insieme discutessero in tutte le città italiche. Hinc ad festum iuni santi Ioannis domini ut secum in colloquio at quae firmo consiglio tractarent onestissimi. E di qui alla festa di San Giovanni di giugno che si avesse un colloquio, un incontro diretto e nel quale si trattassero cose onestissime, cioè onorevoli per gli uni e per gli altri. E adie accelerant, et cum legatis properant rectores castrum nobili, nobile, quod nunquam fuit debile secum repugnantibus. In questo giorno, che è il 4 luglio, i rettori della Lega insieme con i legati, sono i legati papali, i legati imperiali o sono i rappresentanti delle altre città, sono verosimilmente i rappresentanti delle altre città, raggiungono un nobile castello che è sempre stato, che non è stato mai debole nei confronti di coloro che lo assediavano. È il castello di Fiorenzuola, di cui si parla a lungo per tre o quattro strofe, che non è il caso di leggere. Sed nemis moremur ad incertum revertemur. Ritorniamo a quel che avevamo detto. Diciamo che cosa fecero e che cosa trattarono con il re i rettori d'Italia. Sappiate bene, o lettori, e crediatemi, che questo ottimo imperatore è per è animo e empio al di sopra dell'animo di tutti gli altri. È la persona più empia, il saggissimo e l'ottimo imperatore. Nil fecit cum nuntis quo stradere emendatis nisus est. Non ha concluso niente con gli ambasciatori a cui ha cercato di mandare, di dare, di dire delle bugie, di dire delle parole ingannevoli. Ecco, ut viderunt ad proprio regierunt decimo die Iulio, i quali se ne sono ritornati indietro quando si sono resi conto che l'imperatore li voleva ingannare o perlomeno li voleva illudere. In die qui sequitur, consio ec colligitur, qua lombardus banizzavit, aqueus ec secravit. Post de note refugit, et per bardoni montes pontremuli accessis partes, qui civitatis timens nequitiam pisanoro ibi expectavit militiam cum qua profectus fuit pisis. Nel giorno seguente, a quello in cui i nunzi delle città si ritirarono, fu riunita quell'assemblea, la quale mise al bando i Lombardi, ieri ne abbiamo parlato, e li ha anche esecrati, cioè scomunicati. Dopodiché, di notte, l'imperatore è fuggito e per la via di Monte Bardoni, cioè per il passo della Cise, è arrivato nei dintorni di Pontremoli, ma temendo la nequizia della città, nequizia in questo senso vorrebbe dire la reazione della città, non è entrato e aspettato i soccorsi della città di Pisa ed è andato con quelli a Pisa. De pace, continua il nostro autore, questa volta finalmente in prosa in maniera meno soggetta ad ambiguità, et concordia fatta inter imperatore et lombardo per summum pontifice. Millesimo, ducentesimo, vigesimo sesto, indizione decima quinta, de mense octubris legati, summi pontifici, condomini, imperatori, snunzi, Lombardia entrante, rectoribus societatis Lombardie, funius, cuiusque, civitatis, potestatibus, ex parte, summi pontifici precipientes, ut adeus presentiam pro discordia quam erat domino imperatori abebant accedere deberent. E qui vediamo che ci sono i rettori della città, i rettori della Lega che devono andare alla presenza del Papa per trattare e discutere di questa discordia tra l'imperatore e le città, ma ci sono anche i podestà delle città. I rettori non bastano, si vogliono anche i podestà. E questo certamente per cedere a una richiesta di Federico che non vuole riconoscere la Lega. Comunicato vero consiglio, legatos virus nobiles et prudentes ad summi pontifices maiestatem mittere statuerunt. E decidono di mandare come legati degli uomini nobili e prudenti. Nel mese di novembre questi legati si riuniscono a Bologna, si aspettano reciprocamente e si riuniscono tutti. Il giorno 22 novembre cominciano il loro viaggio per andare a Roma. Qui, a summo pontifice, et a romane curie cardinalibus, atque viris nobilibus et magnatibus urbi Rome, magnifice et decenter fuerunt recetti, ricevuti magnificamente, immense vero decembri, pax et concordia pacta fuit per summum pontifice inter imperatore et ipsos lombardos. La pace è stata concordata nel dicembre, ma il lodo papale che chiude la contesa, perlomeno per il momento, è come abbiamo detto, del 5 gennaio. Questa è la narrazione del primo round, diciamo, del contrasto fra Federico e le città, come ci è raccontato da uno dei cronisti, direi veramente meglio informati. Rimangono dei punti un po' controversi, un po' poco chiari, ma è il fatto che volendo scrivere in versi, volendo osservare il ritmo, il numero delle sillabe, eccetera, eccetera, questo bravo uomo ha un po' confuso le cose. Non oserei insistere troppo, perlomeno di non cercare di spiegare fino a quando non avremo delle notizie più precise sulla storia interna di Cremona, che tutto sommato conosciamo ancora abbastanza male, perché non tutti gli scritti che sono stati pubblicati sulla storia di Cremona sono pienamente accettabili. Anche questa è un'altra storia da rifare. E letto questo passo, questi passi, io vorrei passare a quelli molto più significativi di Trasalimbene. Un cronista estremamente più acuto e intelligente nella balsanità del suo umore di quanto non fosse il buon Giovanni Codagnello, cioè Trasalimbene. È difficile in Trasalimbene seguire una linea cronologica e quindi non c'è altro da fare che seguire l'ordine che egli ha voluto dare alla sua cronaca e prendere via via le notizie che più ci interessano. Nel primo foglio, nella prima fotocopia, c'è un titolo abbastanza interessante: Quod imperator misi elefantem sum in Lombardiam. Questo elefante ha fatto una grossa impressione. C'è anche un trovatore, il quale se la prende con Federico Barbarossa, con Federico II, dice: tu stai lì a non far niente, ti gingilli col tuo elefante. Te lo sei portato in Lombardia e intanto non procedi ad azione di guerra contro i tuoi nemici. Ma qui non si parla soltanto di elefante. E oden anno dominus imperator Fridericus misit elefantem in Lombardia, con pluribus dromedarlis et camelis, et cum multis leopardis, et cum multis gerfalcis et asturibus, et transierunt per Parma, ut viri oculis meis, est ferunt in Civitate Cremone. E i gusti di magnificenza di Federico, gusti anche, se volete, da sultano battezzato, come si soleva dire, di spostarsi con tutti questi animali feroci che avevano anche uno scopo preciso, gli piacevano. Gli animali, Federico gli animali veramente li amava molto, anche se li teneva in gabbia, ma avevano anche lo scopo di riempire di stupore, di meraviglia quanti li vedevano, facevano parte della sua azione di propaganda. Il capitolo che segue, dentro Guzioni, imperatori in Lombardia, più utile non venissete, è già tutta una dichiarazione programmatica da parte del nostro buon frate, il quale ci dice che nel 1236, nel mese di settembre, venne Federico imperatore ed entrò in Lombardia contro la volontà illorum de Paduat, de Vincentiat, de Trivisiat, de Mediolanus, de Brixia, et de Mantuat, de Ferrariat, de Bononiat, de Faventia. Sono le città della Lega, ma Rosalimbene non parla mai di Lega. È antiimperiale, è ostile a Federico II, è favorevole alla città della Lega, ma la Lega non la riconosce, nemmeno Rosalimbene, perché è un altro piccolo mistero. Le città le nomina anche lui una per una. È come in fondo se questa Lega, sì, esisteva, era un'intesa, ma non aveva quella struttura, quella solidità che aveva avuto la Lega precedente. Forse questa solidità si è andata pian piano sfacendo dal 1226, quando la Lega si è formata, al 1236, che è il momento in cui Rosalimbene comincia a parlare di questi avvenimenti. Cremonensis veret parmensis et regini cum esercitibus bussui e ducentes milites mutine fuerunt optiam ei et transivit flumen menci et logli. Trapassò il mincio e l'olio e prese e distrusse Marcaria, che apparteneva a Mantova, e la riedificò immediatamente e pose dei cremonesi come custodi e andò con questo e col suo esercito verso Mantova e assediò la città per alcuni giorni e prese poi in Mozzo, che apparteneva a Brescia, e lo dette da custodire ai cremonesi. Allora quelli di Gonzaga resero la loro terra all'imperatore e in quello stesso anno andò a Vicenza e prese la città e la distrusse il primo giorno di novembre. Uno scorcio estremamente rapido delle imprese guerresche di Federico II, che, come ho detto, sono sempre molto difficili da seguire. I piani delle campagne imperiali in Italia sono sempre piuttosto misteriosi. A noi appaiono a volte assolutamente incoerenti. Un esperto di storia militare, Piero Pieri, parlando di queste campagne, di queste e di altre, è uscito in un'affermazione abbastanza singolare. Gli uomini del Medioevo facevano continuamente la guerra, ma non la sapevano fare. Cioè, facevano una quantità di spedizioni, una quantità di attacchi, di contrattacchi, di devastazioni alle campagne, di brevi assedi, ma non riuscivano mai a portare un'impresa a fondo. Questo lo vediamo nelle guerre intercittadine, lo vediamo nelle guerre fra le città e l'imperatore, ma lo vediamo purtroppo anche in quelle grosse, impegnative imprese che erano le crociate. Questa considerazione che gli uomini del Medioevo facevano la guerra continuamente ma non la sapevano fare è una affermazione che non è mia, che è di Pieri, un esperto di storia militare, ma che mi pare che sia veramente oggetto di meditazione. Poi c'è nel foglio seguente, 132, c'è un titolo estremamente interessante. Quod imperator Fridericus, cum vis qui introduxerunt eum in Lombardiam, cioè chi sono i suoi sostenitori, i cremonesi e i pavesi, obsedendo et capiendo villas et castra ibat et discordia seminando. Andava conquistando e assediando e conquistando città e castelli e seminando discordie. Ho già detto nella lezione di ieri come Federico nelle città che gli erano nemiche cercasse contatti e appoggi nelle fazioni contrastanti, soprattutto nella fazione che era in quel momento all'opposizione. E ho anche ricordato come fra le richieste che i Lombardi presentano all'imperatore Nel 1226 c'è anche quella che egli non prenda posizione per una città contro l'altra e ancora meno per qualcuna delle parti nella città. Gli intrighi o i maneggi, come volete dire, le relazioni che Federico cerca di stabilire all'interno delle città hanno lo scopo di creare dei rovesciamenti di situazione, ma hanno come conseguenza un'esasperazione delle contese interne che continua poi, anche dopo la scomparsa di Federico, e che continua ad avvelenare le città, la vita delle città italiane. Si parla poi dell'assedio di Montechiari, nelle vicinanze di Brescia, e il capitolo seguente è abbastanza interessante. Quod imperator cepit Monteclaro, e quod abut multos saracenos in exercitu suo, e quod duxit elephantem sum ad exercitum ad limitandum cum meo, et quod in libro ad Maccabeorum multum de ac materia continetur. Et in historia Alexandri. Et die decimo octubris, quadam die Iovis, illi de Castro, cioè il castello di Montechiari, si arresero all'imperatore e furono tutti presi, portati via e messi nelle carceri. E in quell'esercito l'imperatore aveva molti saraceni, erano i saraceni che ormai erano già stati deportati dalla Sicilia, concentrati a Lucera e che furono fra le truppe più fedeli di Federico II. E prese nel secondo giorno di novembre, prese Gambara, prese il castello di Gottolengo e Pradaldino e il castello del Pavone. E tutti questi castelli furono depredati, distrutti e bruciati. E prima della festa di San Martino, due giorni prima, venne col suo esercito presso Ponte Vico. Aveva l'imperatore il suo elefante, che aveva tenuto fino allora a Cremona, sul quale era una torre di legno, come il carroccio dei Lombardi. Ed era quadrato e ben legato, e aveva quattro bandiere, una in ciascun angolo, e in mezzo un gran vessillo, e dentro il Magister Bestie, cum multis saracenis. Era il cornac, se vogliamo dirla, come col linguaggio degli indiani. E qui questo animale che viene portato a, non so se poi veniva combatteva effettivamente, ma certo che era a modo del carroccio dei Lombardi. Poi continua con una serie di citazioni bibliche che servono in fondo a stabilire o a rinnovare quel continuo contatto tra la realtà immediata e quella realtà traslata e sempre presente e gravante sulla contingenza che gli uomini del Medioevo sapevano vedere nella Bibbia. Nel foglio seguente noi vediamo, sulla parte destra, troviamo la storia della liberazione di Parma. Quando baniti imperatoris intraverunt Parma. Cioè nell'anno 1237. Noi sappiamo che da Parma imperiale erano rapidamente fuggiti i Rossi, preoccupati che i loro rapporti di parentela con Innocenzo IV potessero provocare dei pericoli contro di loro, ed erano tempestivamente fuggiti. Ma quando sono, dopo essere fuggiti ed essersi rifugiati a Piacenza, anelano ritornare, incoraggiati a prendere una decisione di questo genere dal Papa stesso. Pauci milites de Parma, banniti imperatoris qui abitavant Placenti et erant vi ricordati, robusti et fortes, cordati, cioè di molto coraggio, robusti e forti et ad bella doctissimi, ed erant amaro animo, tum quia domus eorum destrutta in Parma, tum quia vita nequam ospitandi de domo in domum, erant enim esule et banniti, et abebant familiam grandem, et modicam pecunie quantitatem, ex imperato enim exiverunt de Parma, ne involveret et caperet eos imperator, venerunt de Placentia et intraverunt Parmam et expulerunt partem imperatoris die decimo quinto, intrante junio. E qui è abbastanza interessante, forse c'è qualche cosa che ci risuona. Intanto già sappiamo tutti benissimo come le case degli esuli generalmente venissero distrutte. È una pratica che si trova in Italia, ma che si trova anche in Germania. Ma quando noi leggiamo quelle osservazioni, vita ne conospitandi de domo in domo, ci vengono in mente i versi famosi di Dante, scritti certamente molto più tardi, in cui si parla del come sa di sale, si dice in cui come sa di sale il pane altrui e come duro calle scendere e salire per l'altrui scale. Qui c'è veramente una risonanza anticipata, direi. Ma Dante, io credo che Dante tra Salimbene lo conosceva piuttosto benino, come conosceva bene anche le epistole di Pier delle Vigne. Entrano a Piacenza, ma non è stata una cosa poi così semplice come lo dice in questo capitolo. Nel capitolo successivo si fa un dovere di raccontarci come andarono le cose. Cum autem de Placentia pervenissent ad Avilla Nuceti, in quoram fratto congregati et armati in equis conzionati sunt ibi, et elegerunt dominum ugonem de santo vitale sunt capitanum et delle silliferum. Si riuniscono in un prato, stando tutti a cavallo, essi eleggono Ugo di San Vitale, loro capitano e vicellibero, sapendo quia ubi non est governato, populus corruet, salus autem ubi multa consiglia. E qui c'è una citazione dai Proverbi. Erat autem dominus Ugo di Sancto Vitale, fortis et doctus ad bellum, et homo sapiens et qualis sapiente descritur. Altra citazione dai Proverbi di Salomone. Vir sapiens fortis est et vir doctus validus et robustus, quia con disposizione initur bellum et erit salus ubi multa consiglia sunt. Erat autem ibi dominus libertus de gente, c'era anche quel liberto da gente, magnus concionator et magnus prolocutus, qui ait sic cum nimicis nostris congrediamur ut dominum proponamus. Scontriamoci, aggrediamo i nostri nemici per portare avanti Dio, la causa di Dio, la causa del Signore, la causa della Santa Chiesa. Non è che qui vogliano proporre un dominus, un Signore. Credo che qui sia veramente per combattere la causa di Dio contro l'imperatore eretico scomunicato. E poi c'è un altro personaggio, Dominus Gerardo de Arcini, il quale dice: abbiamo coraggio e non siamo preparati a vivere o a morire fortemente, nessuno di noi torni o si lasci prendere dalla paura, torni indietro. Il Signore infatti combatterà con i forti e il suo ausilio verrà a noi dal cielo. Con queste parole, animati da queste parole, vennero e fecero una grande battaglia col podestà e con i militi di Parma al borghetto del Taur, sul Taro, credo, no? E li uccisero il podestà di Parma, ossia Enrico Testa di Arezzo, che fu un uomo ben noto e amico mio e di tutti i frati minori. Et militem sum si militer interfecerunt, et dominum Manfredum de Cornazzano, eccetera, eccetera, c'è tutto l'elenco degli uccisi in questa battaglia. Et die lune tempestive dicti per menses miserunt ambassatores comuni regi, dominum hermanum scotum, vietalium cum eo, qui petebant captivos parmi sibidare, qui regi de tinebatur in vincul, et tunc dominus bosus, potestas reginus nolit eus audire. Cercano di recuperare i prigionieri parmensi, cioè della loro stesso partito, che sono richiusi a Parma, ma non riescono ad averli. Appunto, a questo punto, fra Salimbene si sente in dovere di darci delle spiegazioni sul perché e per come hanno potuto prendere la città. Potuerunt autem isti forbaniti parmam facili per invadere et capere multiplici razioni. Per molte ragioni l'han potuta prendere. Prima, via rex encius, cui pater custodiam parme commiserat, iderat cum cremonensibus, ad obsidendum quod ancastrum in episcopato brixiensis quod vicebato pinzano. Federico, Enrico, cioè Renzo, non c'era, perché era andato ad assediare un'altra città. Si ha l'impressione che ci dovesse essere un servizio di spionaggio piuttosto ben organizzato, perché questi nostri bravi lombardi sapevano sempre cogliere il momento in cui Renzo per un verso o Federico per quell'altro erano un po' distratti o occupati in altre cose. Qui Enzo se n'era andato ad assediare Quinzano. Quando ci sarà la grossa battaglia di Parma sarà sterminato l'esercito di Federico e sarà soprattutto liberata di nuovo la città dall'assedio, e il servizio di informazioni aveva detto che Federico se n'era andato a caccia insieme con i suoi più valorosi guerrieri. La seconda ragione è qui all'imperator erat in quadam civitate Lombardia capellator Taurinum. In quadam civitate Lombardia che si capellator Torino. Era Torino, una città che sembra che sia lontanissima, di cui sembra che non si abbiano grandi notizie. Eppure Torino aveva fatto parte della Lega e intorno a Torino gravitava tutto il movimento delle città e dei signori piemontesi che avevano tanta importanza nella politica milanese e nella politica generale dell'Italia settentrionale. Tutto questo sfugge in questo momento a Fra Salimbene, che pure è così ben informato. L'imperatore stava andandosene a Lione per prendere i cardinali e il papa, e naturalmente se ne deve tornare indietro. Ma intanto però è abbastanza lontano. Terza ratio est, qui a Dominus Bertolus, Tabernerri, ile die tradebat filiam suam domina Maria nuttui, cui d'ambrixiensi, qui venerat parmam proea. La terza ragione è che il Bertolo Tavernari dava in quel giorno sua figlia Maria in nozze a un cittadino bresciano che era venuto. Ed illi qui occurrerunt parmensibus venientibus in illo convivio comederant, et vino, et affluentissimis davibus plenierant, e quelli, i ricchi in fondo, che avevano partecipato a questa festa di nozze, avevano mangiato e bevuto. Et surexerunt a prandio, et primo congresso credevant omnes involvere, et ideo, via quasi ebri erant, tam in burgetto, quam in glaria fluminis tauri, fuerunt abeis mortui et prostrati. È l'occasione di un grande matrimonio, di una grande famiglia cremonese che ha dato occasione a un grande festino in cui tutti si sono ubriacati. È il momento che viene scelto dagli esuli per rientrare in città. Anche in questo caso credo che il servizio di informazioni abbia giocato e abbia giocato un bel po'. A trovare i nemici ubriachi è sempre un bel vantaggio, insomma. Quarta ragione est, quia permensis civitas, undique erat aperta, nulla enim abebat clausura. La città di Parma non era una città fortificata. Non so fino a che punto questa affermazione, insomma, come in pratica questa affermazione si possa tradurre. È difficile pensare una città del tutto non fortificata, ma molto probabilmente erano delle fortificazioni in corso di allargamento, fortificazioni costituite ancora da fossati, semplici fossati e palizzate, al di là delle quali era difficile organizzare una difesa. Del resto, anche la fortificazione di Bologna, quelle che sono state, che erano in corso di rifacimento nel 1226, di cui abbiamo sentito parlare prima, in parte erano già fortificazioni, murature, in parte erano semplici palizzate, come ci risulta da documenti molto precisi. La quinta ragione dell'ingresso, del facile ingresso degli esuli, ma è tremenda questa carta, no? La carta fa venire raschini in gola, è che quelli, qui ad ingredientum venievant, occurrentibus, cancellatis manibus signum crucis facebant dicentes, amore Dei et beate virginis matris eius, quae nat civitate est domina nostra, placet vobis ut redeamus ad civitate nostra, quia sine culpa fuimus expulsi et forbaniti, et cum omnium pace revertimus, ne caliqui alicum in iurgiam in ferre intendimus. La quinta ragione è che quelli che stavano entrando in città, cioè i fuoriusciti, quando incontravano delle persone, con le mani si facevano il segno della croce e dicevano: per amor di Dio e la Beata Vergine, noi vogliamo rientrare in città, noi siamo stati espulsi senza avere nessuna colpa, non vogliamo fare male a nessuno. Fanno subito delle dichiarazioni di pace alla gente che incontrano. Audientes hoc, parmensis, qui per strata, sine armis, eis occurrerà, ad misericordia flexi, sunt proprio militate meorum. E i parmensi che li incontravano, di fronte a queste loro buone maniere, si sentono piegare alla misericordia, conoscente e riconoscevano che questi venivano in maniera pacifica, e dissero: entrate pure nella nostra città sicuri in nome di Dio, che la etiam manus nostra vobiscum erit in omnibus istis, noi saremo con voi. E che vuol dire che c'era perlomeno una certa intesa anche con altra gente all'interno di Parma. Questi incontri casuali in parte sono casuali, ma molto probabilmente c'erano già delle intese. Sesta ratio est, quia ibi, qui in civitate erat, non intromittebant sede negozis isti. Quia nec cum mistis, qui venerant erant, nec pro imperatore pugnabat, sed sedebant trapezzite sive campsores ad telonum sum, e tali artiste non timitebant, propter hoc, quim operarentur in stationibus suis, axi nihil esset. Noi ci immaginiamo molte volte i tumulti, i colpi di mano nelle città, come qualche cosa che coinvolgeva tutti. Questo racconto che ci fa in Fassalimbene credo che sia valido non soltanto per Parma, episodio di cui egli è testimone, ma che ci dia un motivo di meditazione che forse molte le cose andavano proprio così. Non tutta la cittadinanza era coinvolta. Molti non si intromettevano e non erano né con quelli che erano venuti, cioè con i fuoriusciti, né con l'imperatore. Ma i cambiatori se ne stavano tranquilli ai loro affari, quelli forse il sacchettino di denari l'aveva messo via, io penso, per prudenza. E gli altri artisti non smettevano di lavorare nei loro negozi come se non succedesse niente, indifferenza completa della popolazione. Settima ratio est, quia nobilis et potentes, qui erant in civitate ex parte in terre, stati relicta civitate, diffuderunt sepere episcopatum ad castra et fortitudines suas timentes eas anittere. Quelli che i nobili e i potenti che erano in città e che erano della parte dell'impero lasciarono la città e si rifugiarono nei loro castelli e nelle loro fortezze temendo di perderle, cioè temevano che dopo aver preso la città, che era una cosa che interessava sì loro, ma soprattutto l'imperatore, temevano che i rimpatriati aggredissero poi i loro castelli nelle campagne e pensano bene di rifugiarcisi e anche di fortificarli apprestandosi a difenderle. Octavio re, octava ratio est, quia etiam teutonici imperatoris audientes quod potestas parme erat abistis occisus. Timentes mori, invitaban isto sut pacifice de civitate facerent quid vellent, idem etiam fecerunt custodes palazzi comunis et turris, ide odicet sapiens in proverbi 29, pestilente flagellato stultus sapientur erit, eccetera, eccetera. E anche i tedeschi, avendo saputo che era stato ucciso il podestà, temendo per se stessi, invitano costoro a occupare tranquillamente la città e anche i custodi del palazzo comunale della torre fanno altrettanto. Questa è la storia singolare della presa della città di Parma. E dice, la nona ragione per cui sono riusciti a questo colpo di mano è che speravano di avere in breve aiuto da varie parti. E infatti l'aiuto viene da Papa Innocenzo IV, qui multos propinquo set affine sabebat in Parma, et qui a Parma contra imperatore inimicum sum pugnare volebat, voleva che Parma combattesse contro il suo, cioè perché Parma voleva combattere contro il suo nemico e già aveva cominciato a combattere. Avevano avuto aiuti da Gregorio di Montelongo, legato papale in Lombardia, che era a Milano e che era preparato a venire insieme con Bernardo Rolando Rossi di Parma, cognato dell'impero del Papa, il quale era rifugiato a Milano. Avevano avuto aiuti dai piacentini, dal conte di San Bonifacio di Verona, infine dai bolognesi, dai ferraresi e da tutta la parte della Chiesa, cioè da tutti coloro che aderivano al Papa piuttosto che all'imperatore. De validissima guerra intricata, quae fuit inter ecclesia et rem publica, sive inter imperatore et Papa. Validissima guerra intricata, impareva intricata anche a Fra Salimbene che ne voleva parlare. E non soltanto a noi storici che la dobbiamo ricostruire. Però c'è qualche cosa qui di abbastanza interessante. È intricata, sì, ma ci dà anche delle indicazioni sulla situazione interna delle città. Pretermitendum non est, ut labyrinthus, a modo cognoscato, sebbene sia una specie di labirinto, quod pars ecclesia de multina extra civitate in suam erat, pars alta in imperi in civitate. I fautori della del papato di Modena erano fuori della città, invece gli imperiali era dentro. Altrettanto era Reggio, la stessa cosa in processo temporis in Cremona, la stessa cosa successe in seguito a Cremona. Et ideo fuit validissima guerra temporibus illis, quae multis annis duravit, e fu una guerra durissima che durò per molti anni. Nec poterant homines arare, nec seminare, nec metere, nec vine aspacere, nec vindemiare, nec in villis abitare. E mentre prima ci è stata rappresentata la presa di una città, il colpo di mano che sposta una città da un partito all'altro, come un episodio senza violenza, che non interessa tutta la cittadinanza, qui invece noi vediamo una devastazione assoluta e completa delle campagne, che ha un'incidenza gravissima, credo, su tutta l'economia. E toc fuit maxima in Parma, et in Regio, et in Mutina, et in Cremona, verum proprio civitates laborabant homines cum custodia militum civitatum. Qui per quarteris dividebantur secundum portas civitatem, i milites della città, cioè i cavalieri, gli uomini a cavallo, sorvegliano e custodiscono coloro che lavorano la terra, gli uomini di ogni quartiere nella zona circostante, et milites armati custodievant operarios totadie, et rurales operabant in agricoltura, sempre sotto la tutela degli armati, su per giù come succede adesso in Palestina, dove si lavorano i campi sotto la guardia dei carri armati. Et hoc portebat fieri, propter deruarios, et latrones et predones, quae multiplicati erant nimis, et capiebant homines, et ducebant ad carceres, ut se redimerent propecunia, et boves auferebant, et come debant, vel vendebant, e nisi se redimerent, homo homine in tempore illo e untem per via, sicut libent, videret diabolum. Incontrare qualcuno era come incontrare il diavolo. Vabbè, poi dice il capitolo seguente è abbastanza interessante. Et multiplicata sunt mare in terra, et multiplicata sunt aves, et bestie silvestres, vermenter nidis, ut fagianis, et perdices, et quaglie, lepores, et caprioli, cervi, bubali, porci silvestri, et lupi rapaci. Aumentano le bestie feroci, selvatiche, che nessuno può andare più a cacciare. Non è inveniebant in villis secondo un antico consuetudine in quascomederent bestie. Non c'erano persone che mangiassero le bestie, gli agnelli o le capre, e quod ville totali interesse combuste. Tutti i villaggi erano stati bruciati. E perciò perciò i lupi, riuniti in grande quantità, andavano intorno alle fosse della città e ululavano con grande clamore per l'angustia della fame. Io non capisco questi lupi, i quali avevano tanta abbondanza di bestie selvatiche, poi andavano a ululare intorno alle mura delle città. Sono episodi singoli che il nostro cronista generalizza, ma però sono anche episodi sempre piuttosto significativi. E questi lupi entravano nella città di notte e divoravano gli uomini che dormivano sotto i portici o che dormivano nei carri, e divoravano anche le donne e i bambini. Quando anche non tanto certe volte sfondavano le pareti delle case, che erano certamente pareti di legno, e soffocavano, strozzavano, sgozzavano i bambini nelle cune. Nessuno potrebbe credere, se non l'avesse visto come ho visto io, tutte le orribili cose che succedevano in questo tempo. E anche questo mi pare un capitolo abbastanza interessante di cui si potrebbe continuare la lettura se non fosse troppo lungo, come dice lo stesso nostro amico in certi casi. L'ultimo, a pagina 292, abbiamo invece la esposizione della cattura, cioè della conquista della città di Vittoria da parte dei Parmensi e della presa del carroccio dei Cremonesi, a pagina 292. Dunque, ritorniamo a Federico, la cui afflizione e maledizione, che era infiammato di tanto furore contro Parma, durò dal 1247 alla fine di giugno fino al 1248 alla fine di febbraio, in un giorno di martedì, quando fu presa la città di Vittoria. I Parmensi e tutti i cavalieri popolari armati uscirono alla battaglia da Parma e le donne uscirono con essi, insieme con i bambini e le bambine, juvenes et virgines, senes cum junioribus, et violenter, expulerunt imperatore de Vittoria, et omnes suos milites et pectes. Hanno espulso tutti. E molti furono i morti, e molti prigionieri condotti a Parma. E liberarono i prigionieri parmensi che l'imperatore teneva in catene nella città di Vittoria. E così si compì un detto del profeta Isaia. Il carroccio dei Cremonesi, che era Vittoria, fu portato a Parma e messo nel battistero. Ma quelli che erano amici dei Cremonesi, quelli che non amavano i Cremonesi, come i Milanesi e i Mantovani e molti altri, perché erano stati offesi dai Cremonesi, quando venivano al battistero a vedere il carroccio, ornatum verte abstulerunt, presero tutto ciò che ornava, che costituiva l'ornamento di Berta. I carrocci avevano dei nomi, quello dei nomi come le navi in fondo, e il carroccio dei Cremonesi si chiamava Berta. La scelta di un nome piuttosto che un altro non lo so, e si portavano via questi frammenti degli ornamenti del carroccio cremonese ut aberent pro reliquis, per tenersele come de reliquie, dice Batura in Berta. Sed rotere manserum ibitantum et lectus plautum rimase soltanto per le ruote e il piano del carro sul pavimento del battistero. Columna vero vexillis ide pertica eretta stabat murum. E la colonna a cui era appoggiata a cui si attaccava il vessillo rimaneva appoggiata al muro, proprio sfatto completamente questo carroccio. Ma le notizie interessanti sono quelle relative al tesoro che l'imperatore aveva portato con sé a Parma e della corona. Qui c'è una cosa, un particolare abbastanza interessante, che mentre qui a Parma Federico aveva ancora tutti i suoi tesori, quando più tardi sarà impegnato nell'assedio di Faenza, che andrà per le lunghe, si troverà invece terribilmente a corto di denaro e batterà moneta di cuoio. monete dei dischi di cuoio su cui era impresso un segno particolare che dovevano valere come moneta e che egli si era impegnato, una volta risolta la questione, a cambiare con moneta vera, con moneta metallica. Qui i parmensi tolsero all'imperatore tutto il suo tesoro, che era molto grande, in oro, in argento, in pietre preziose, vasi e vesti, e tutto ciò che costituiva il suo ornamento e la sua suppellettile, e perfino la corona dell'impero, che era di gran peso e gran valore, ed era tutta d'oro e tutta costellata di pietre preziose, e che aveva molte immagini fabrefattas, direi smaltate e a rilievo, come che tu le avresti credute delle celature, cioè delle cisellature. Era grande come una pentola. Infatti era per dignità e per poterci mettere cose molto preziose più che per ornare il capo. Tutta la testa insieme con la faccia avrebbe nascosto se non ci fosse stato messo dentro una specie di calottina per sostenerla. Io ce l'ho avuta in mano, poiché era stata depositata nella sagrestia di Santa Maria nella città di Parma. E quando voglio richiamarmi alla memoria quella corona, ricordo quel diadema di cui si legge nel libro dei re, eccetera, eccetera. Sempre questo continuo richiamo alle sacre scritture in cui c'era sì la storia del popolo ebraico, ma tutta la storia presente e futura del popolo cristiano. Anche corona mi invenit, qui da homum parvus, negli stature, qui dice Batur ironice, curtus passus. L'aveva trovata così, abbandonata come una cosa inutile, un ometto di bassa statura che veniva ironicamente chiamato passo corto, perché era chiamato così perché era piccolino, e la portava pubblicamente nelle sue mani, mostrandola a tutti che la volevano vedere in onore come segno della vittoria del sempiterno obbrobrio di Federico. Infatti chiunque poteva prendere con una qualche cosa, quella era sua. Ma nessuno osava portargliela via. Questa corona però fu comperata dai parmensi, da quel loro concittadino, e gli dettero 200 libri imperiali e un'area con una casa presso la chiesa di Santa Cristina, dove c'è la vasca per lavare i cavalli. E stabilirono che chiunque avesse qualche cosa dei tesori di Vittoria, metà se la tenesse e metà la dovesse consegnare al comune. Così si sono arricchiti mirabilmente i poveri dopo aver spogliato il principe molto ricco. Le cose invece peculiarie dell'imperatore, cioè le cose che erano veramente dell'imperatore e che erano materiale bellico, come le tende e cose del genere, le ebbe Gregorio di Montelongo, il legato papale. Immagines vero et reliquie, quasi imperator abebet, collocate sunt in sacradius, ive sacristia maioris ecclesie, beati virgins. Invece le immagini sacre e le reliquie che l'imperatore portava con sé, era un imperatore che passava per ateo, un imperatore che aveva però un suo programma religioso, di riforma religiosa, piuttosto preciso, e che comunque, secondo gli usi dei tempi, si portava dietro immagini sacre e reliquie. Queste sono state poste nella sacrestia. Quambis agli fuerent pugnatores ad Federicum, debellandum et fugandum, ipsa tamen fuit illa una mulier ebrea, quae fecit confusione in domo Nabucodonosor regis, ut in iudicia historia continetur. La donna che ha portato alla rovina Federico II, come un'altra donna aveva portato alla rovina Nabucodonosor, è Parma, personificata in una figura femminile. Deduce Crucibus istius eserciti con Federico Fugavero, su cui c'è tutto il nome dei duci, dei personaggi illustri che erano con Federico II. Nel foglio seguente c'è un episodio abbastanza singolare. Noi sappiamo che il Papa a un certo momento rimproverò a Federico II i suoi errori di comportamento con i Lombardi. Gli rimproverò di essersi presentato a loro fin da bel principio come un principe severo ed esigente, di non aver assunto nei loro confronti un atteggiamento paterno. Gli storici moderni riconoscono che è stato un grosso errore politico, anche negli secondo gli scopi che Federico si proponeva, pretendere di andare alla dieta di Cremona con una scorta armata. Era in fondo nell'opinione corrente che Federico degli errori li avesse commessi. E vediamo che cosa gli si dice a questa pagina 441, riga 17. La contessa di Caserta riprese l'imperatore Federico: quod insipiente regerat intromittendose de guerris Lombardorum. Gli rimproverò di essersi intromesso con molta insipienza, con molta imprudenza nelle guerre dei Lombardi. Cum omni haberet in regno suo, in quibus umana vita poterat delectari, e in cui potendo avere tutto quello che voleva nel suo regno. Ma l'imperatore rispose: cognosco comitista, quod verum dicis, sed intantum iam processi, quod sine obbrobrio meo amodo cessare non posso. Hai ragione, contessa, dici la verità, ma io sono andato tanto avanti che non posso ritornare indietro senza obbrobrio. Magari semper usus fuisse in consiglio tuo, magari avessi potuto seguire il tuo consiglio, che tante calamità non le avrei incontrate. Cui comitista dixit, deterius tibi erit, si maiores incurres, andrà ancora peggio per te se ne incontrerai di maggiore. E non era ancora stato deposto Federico, non era ancora stato scacciato da Parma. Ma l'imperatore rispose: non aspetto mali incorrere mali maggiori, ma spero di potermi vendicare dei miei nemici. E la contessa ribatté: mal ulcisitur in uram suum, qui è un deteriore in facita, ma le vendica la sua ingiuria colui che ne fa una peggiore. È un dialogo estremamente interessante. Da una parte mostra come negli usi del tempo una donna, la contessa di Caserta, potesse parlare, si pensasse che una donna appartenente sia al ceto nobiliare non potesse parlare di questo. D'accordo, ma è sempre una donna però. Vero che si ammette che possa parlare di questioni politiche, anche se è un grande personaggio. E come in fondo anche nell'ambiente intorno a Federico, nell'ambiente del regno, si riconoscesse che questa guerra era stata condotta avanti per ostinazione e che era un grosso errore politico. Riassumendo la situazione, le vicende di questo episodio, di questa lunga lotta, tra Salimbene ci parla dei 10 infortuni dell'imperatore Federico, delle 10 disgrazie che l'imperatore ha avuto. E quali sono state? Il primo infortunio fu che il figlio Enzo primogenito, Enrico primogenito, che doveva imperare dopo di lui contro la sua volontà, si intese coi Lombardi nel 1234. E perciò egli lo prese, lo mise in carcere e poi perì di mala morte. Il secondo fu l'infortunio che dovette sopportare la Chiesa, che dovette sopportare nei confronti la Chiesa, che il Papa, i cardinali e tutti gli altri prelati, essendo poveri, era la sua pretesa che la Chiesa, il Papa e tutti gli altri cardinali diventassero poveri e se ne andassero a piedi, e che non intendeva facere zelo divino, ciò intendeva farlo non per zelo divino e non perché fosse cattolico, ma perché aveva voglia di impadronirsi dei tesori della Chiesa. Il terzo infortunio fu che voleva soggiogare i Lombardi e non poté, poiché quando gli aveva essi, quando veda teos ex una parte, per veda teos ex altera. Anche fra Salimbeni trova che la vicenda è molto complicata. Obliqui enim sunt valdet lubrici, vanno per vie traverse, ti scappano di mano come niente, lubrici, sono scivolosi. Dum agio dolocuntur et aldo lagunt, dicono una cosa ne fanno l'altra. Ut si veli sanguilla, autum moreno una strictis tenere manus, come se tu volessi tenere stretta tra le mani un'anguilla che ti scappa quanto più stretta la tieni. Il quarto infortunio fu che Papa Innocenzo IV lo depose dall'impero. Il quinto infortunio fu che, mentre egli era ancora vivente, fu nominato un controimperatore. Il sesto infortunio fu quando Parma gli si ribellò e aderì alla Chiesa, che fu la causa di tutta la rovina di lui. Sì, la perdita di Parma ha veramente segnato un momento di svolta, è stato un insuccesso clamoroso per la posizione geografica di Parma, che controlla anche questa, come Bologna, la strada nord-sud, ma è stato proprio la clamorosità dell'episodio della sconfitta che ha segnato un momento di svolta nella fortuna di Federico. Settimo infortunio, un cuius eius fuit, quando Parmenses ceperunt civitate in sua vittoria. E siamo sempre sul discorso di Parma. Poi l'ottavo infortunio fu quando i principi e i baroni gli si ribellarono contro di lui, ed è la grossa ribellione dei funzionari e di certi feudatari del regno di Sicilia, che anche questa ha avuto un significato profondo e di cui credo che ci parlerà Massarese Faldella. E poi, dopo aver enunciato tutti questi vari tipi di infortuni che egli cerca di sintetizzare come meglio può, dà un giudizio di Federico doppio. Da una parte un giudizio negativo che si conclude: De fide dei nihil habebat, non credeva in niente. Calidus homo fuit, versutus, avarus, luxuriosus, maliziosus, iracundus. Et vales homo fuit in terdum, quando voluit bonitates et curialitates sua mostendere, solaziosus, iocundus, deliziosus, industrius, leggere, scrivere et cantare fievat, et cantilenas, et canciones in venire, pulcher homo, et bene formatus, sed medie stature fuit, vivi enim eum et aliquando dilexi. C'è questo doppio sentimento nei confronti di Federico. E c'è anche un'altra constatazione, che gli viene, sì, dalla letteratura profetica, ma che ha anche una profonda risonanza nell'animo suo. Quod in Federico Romanum finitur imperium, in ipso quoque finietur imperium, quia et si successores sibi fuerint, imperiali tamen vocabulum ex romano fastigio privabuntur. Verba sunt ista cui justan sibille, ut dicunt, sed non in veni, et nec in Eritrea, nec in Tiburtina scripturas, in Tiburtina scrittura saliarum non vivi. Ma questa frase, questo detto, che in lui finisce l'impero, che si avrà dei successori, non saranno chiamati imperatori, queste parole dicono che siano in un testo della Sibilla, ma io non sono riuscito a trovarle né nei testi della Sibilla Eritrea né in quelli della Tiburtina. Scrittura saliarum non vivi, non ho visto le scritti dei libri delle altre Sibille. 10 furono le Sibille, eccetera, eccetera. E poi adesso si ricomincia a parlare di successori di Federico, ma il discorso in pratica è già bene finito. È finito con questa constatazione che l'impero finiva con Federico. Poi nell'ultima pagina, di cui avremmo dovuto parlarne prima, quali sono le città della Lombardia che mutuo amore se intime diligebant. Ed erano unite da un fedus di amicizia e di amore, ma non si parla, si elencano le città e non si parla della via. Queste sono le testimonianze più salienti che troviamo nella cronaca di Fra Salimbene c'è una lettura veramente affascinante. E con questo io chiudo. Può essere stata un po', diciamo, scolastica questa lettura, ma credo che sia stata utile averla fatta così con calma e tranquillamente, con tutte le incognite che possono esserci in certe interpretazioni. Io devo ringraziare la signorina Fasoli in questa lettura, una lettura che, come voi avete notato, dare questa discussione. Io ritengo che forse sarebbe, se non sbaglio, ma è una cosa che possiamo decidere insieme, io credo che sarebbe forse meglio affrontare, non tenere distinti i due testi, ma affrontare i problemi che dalla lettura di entrambi sono emersi. Comunque, se invece preferite prima affrontare dei problemi interpretativi che i testi possono avermi lasciati, e poi possiamo allora affrontare l'altro. Ditemi voi come preferite, perché si può seguire ad una strada l'altra. Forse possiamo affrontare prima il problema della discussione dei testi stessi, prescindendo da qualche punto più o meno facile. E allora, io penso come condizione e modo di essere. Invece qua, cioè nel prospettivo cronologico che avevamo ieri, si dice che dunque c'è una dieta, si convoca una dieta, si dice convoca una dieta cremona, proprio un superitante, però non è proprio di ricondazione in stato di bene. Già? Anche lì vuol anche dire, lì vuol dire la stessa il cosa. Buon governo, la buona condizione è l'impero. Una condizione è questa. Nel Medioevo, anche per la Chiesa si usava la parola Stato, si scriveva status ecclesiae, statuta ecclesiae, dicendo che il status ecclesiae è una condizione immodificabile, cioè è lo status, proprio lo stato della Chiesa, invece il statuto ecclesiae è la condizione, è la condizione giuridica progressivamente. Sono le norme. Le statute sono le norme che regolano lo status. Ecco, ma lo status è immodificabile, invece qui è una condizione immodificabile. È un modo di essere. C'è una diversità di interpretazione per la Chiesa e per l'impero, questa parola. Ma qui non si riferisce nemmeno all'impero, perché qui si riferisce alla Lombardia. No, qua nello schema cronologico di status. Ah beh, in quello come sì, certo, è la formula di, ma è sempre status, vuol dire modo di essere. È la parola, no, signorina, no, il problema è molto semplice, scusi. La parola status ha vari valori semantici. In questo passo ha il valore semantico, direi, iniziale, quello vorrei dire più legato all'etimologia, al rapporto con il verbo stare, cioè alla condizione di essere. Questa condizione di essere poi a sua volta ha vari significati, no? Può essere condizione di essere in un ambiente sociale, lo status ecclesiasticus o lo status laicalis, eccetera, eccetera. Può essere lo status ecclesiae, cioè la organizzazione reale, il modo di essere della Chiesa. Cioè è una parola che è polivalente. Qui è nel suo valore, direi, addirittura elementarissimo, cioè l'essere come realtà, che la città di Verona che desiderava che la Lombardia stesse come stava, vorrei dire, ecco, la buona situazione della Lombardia. Poi qui forse ci poteva anche, se era in prosa, probabilmente ci metteva un prosperum, che invece nel verso non ci stava, perché è un verseggiatore un po' inabile anche, sì, no? Direi molto inabile. Versi che zoppicano non metricamente, ma logicamente da un po' tecnicamente da un po' da un po'. No, qui vuol dire semplicemente proprio nel senso elementare, nel senso iniziale. Una parola elastica. Io volevo, sono rimasto interessato a questi ambasciatori che dovrebbero andare a Gaddafi, da che dico. Già, io lì non ho capito. Non hanno portando un po' anche il significato della parola, non deve invece pensare a una richiesta di servizio da parte di Federico che voglia verificare la fedeltà, cioè se essendo portando il punto della parola ambasciatori non sia invece proprio una verifica della fedeltà. Ma qui c'è, adesso bisogna, adesso li ritroviamo subito. No, no, ma adesso li ritroviamo. Li ritroviamo perché a me quelli. Qual è? Eccolo qui, è a pagina 76. Pagina 76. Alla strofe 18. E credo proprio che forse sia la soluzione, perché vedi, ius intergo civitates, Lombardie potestates. Ut trasmittere telegatos armis etis preparatos ad sui presentia, cioè sì, che mandino quelli che dovevano rispondere al banum regis. Legatos, beh, vuol dire, per, torniamo al fatto, ovvero di questo senso non del tutto proprio, che ti sembra? Mi pare che sia una richiesta di servizi. Cioè, prestate, mandate gli uomini che siete tenuti a mandare per il servizio terrestre. Potrebbe essere, però c'è questo discorso che Marchesani virus multus, allora dice trasmiserunt tunc legatos sed non armis preparatos. Mandano gli uomini ad intervenire al colloquio, ma non per rifiutando di obbedire. Rifiutando servizio? Al bannum, è vero, all'ordine di prendere le armi. Potrebbe anche essere. Certo che sì, è un'interpretazione che mi pare che bisogna che ci riflettiamo sotto ulteriormente, perché, cioè, richiesta di servizio. Questa è interessante questa ipotesi, perché è veramente piuttosto curioso come testo. Sì, ma questo si collega un pochino a quanto accennavo io ieri, cioè che l'imperatore teneva ad esercitare sulle città lombarde il suo diritto di banno, cioè di chiamata alle armi. Quindi evidentemente ordina alle città. Ecco, ma poi c'è anche un altro... la parola legatos, ma questo in questo contesto non dovrebbe dare problemi. C'è un altro passo estremamente interessante di Federico, adesso io non le ho qui lo Yarbreol, non ho tutte le mie schede, ma ce n'è una in cui, parlando dei Lombardi, dice che essi hanno dei doveri verso di Russi, che vassalli domino suo. E appunto questo è molto interessante, perché lui chiede il giuramento di fedeltà alle città che glielo fanno, poi dopo lui chiede il rinnovamento, eccetera. Questa è un'interpretazione. Non so, ma aggiungiamo che poiché qui noi stiamo parlando al 1226, è molto vicino, relativamente parlando, sono passati pochi anni, 6 anni, da quando Corrado di Metz, è venuto girando di città in città, è venuto ristabilendo, tra l'altro, proprio questo diritto degli italiani. A proposito di Corrado di Metz, in quel mio testo, in quel mio schema cronologico, che io ho redatto servendomi di opere a stampa, note, Don Roger mi ha fatto notare che il povero Federico di Trento non poteva esserci per la buona ragione che era già morto nel 1218. Quindi è un errore che mi è venuto, non so bene da chi o da dove, e che Don Roger ha avuto la cortesia di aggiustare. E che glielo ringrazio. Nominato e poi è morto, insomma, ecco, sono cose che succedono. Quindi no, di questi errori ce n'è molto, va bene. Questa è una cosa interessante. Allora abbiamo, ecco, vedete che discutere giova. Allora, altri problemi? Questo mio grande, una questione forse analoga a questa, sempre per quanto riguarda il romanismo. Pagina 77, strofa 25. Codagnello, che è indubbiamente un cronista anti-imperiale, definisce l'imperatore Sator Legis Secularis e lega tra loro fonte del diritto secolare, del diritto non canonico. Del diritto civile. Diritto civile, bene. Ora, io vorrei chiedere questo. Non può essere che Lator sia da intendere nel significato più letterale, proprio portatore del diritto civile. Cioè, colui che ne è depositario. Oppure, nel caso è da intendere, come lei sostiene, sulla fonte, è un fatto comune, io non lo so, è un fatto comune che, diciamo, un appartenente alla fazione anti-imperiale riconosca l'imperatore come fonte del diritto. Questo non c'è dubbio. E non può essere che sia... Non hanno, i guelfi più arrabbiati non hanno mai rifiutato questo diritto all'imperatore. Questo che io sappia. È un problema direi fondamentale. Il guelfo non voleva certe cose, ma non è che rifiutava, tranne proprio gli ultimi, la prima Lega Lombarda, tranne gli ultimi tempi, quando a un certo punto la guerra è diventata aperta, hanno parlato di falsa debita fidelità di imperatori. E anche quando la guerra è diventata aperta, hanno detto salvi i diritti dell'imperatore fino ad Enrico V, se non ricordo male. Certo. No, ma non hanno mai negato. Quindi siamo attenti. E perfino quando tutto il Medioevo. Quando veniamo anche più avanti, quando noi vediamo Bartolo da Sassoferrato, che era uno degli uomini, diciamo pure, più realisti e più spregiudicati, fra i giuristi del Medioevo, con la conoscenza vastissima che aveva di tutti i problemi anche della politica contemporanea, con il suo trattatello De Tirannis, vero, e quello De Parcialitatibus, in cui ci parla delle parti dei Guelfi e dei Gabellini, è il primo e l'unico uomo del Medioevo il quale sente la funzione dell'opposizione, che pensa a un bipartitismo, è un uomo di una modernità veramente impressionante. Anche per Bartolo di Sassoferrato l'impero è la fonte del diritto, perché gli imperatori si presentano come imperatori del Sacro Romano Impero, si presentano come successori e continuatori degli antichi imperatori romani. E Federico stesso, in uno dei suoi passi, invoca la Les Regia, quella per cui il popolo romano ha delegato gli imperatori. Questo è un fatto che è del tutto distaccato da quella che è la realtà pratica contingente. Sì, ma riprendoci al termine Lator, io non si può parlare proprio di oltre che alla fonte, veramente al... Anche il portatore. Cioè che raccoglie il diritto di una tua evoluzione. Sì, no, legislatore esiste come parola italiana. Ma gli potrei dire anche che la parola legislator viene usata anche in certi testi in alternativa con legis doctor e con legis iuris peritus. Quindi una cosa un po' diversa. Sì, viene usata raramente, ma qualche volta la si trova. E quindi quelli lì non sono insomma gente che ha a che fare col diritto, ecco. Cosa poi intendesse dire proprio giusto lui, non credo però che si mettesse dei troppi problemi il nostro buon Giovanni Codagnello. Lì è fonte del diritto. Direi. Legislatore di quello che dà le norme del diritto laico, no? Secolare. Come del resto giustamente adesso proprio ci faceva notare il professor Mazzarese Fazzella, non dobbiamo pensare, qui voi non avete un diritto. Se Codagnello avesse fatto un trattato di diritto, allora qui potevamo, e anche sul legatus, è vero, cum armis, eccetera, è vero, un legatus cum armis su un piano giuridico, è vero, sarebbe da brividire, invece qui è naturalmente un vocabolario che il povero Codagnello deve fare entrare in questi versi, nei quali non ha certo la maestria che abbiamo sentito ieri, è vero, in Walter von der Vogelweide o negli altri poeti, credo, del mondo tedesco del Novecento. Infatti, poverino, lui lo chiama Ritmum. Però è un mosaico, non è del tutto ignaro di ma nessuno sa di chi è regnato, diciamo solo che i versi gli vanno come gli vanno e allora si deve andare, deve fare andare le sue parole, vero? Come può. Allora, altri problemi? Ma guardate che abbiamo detto che si può anche fare porre i problemi relativi a Salimbene. A fra Salimbene o sì. Problemi anche relativi alle cose che abbiamo detto ieri, riprenderle fuori sì, oggi. Sì. Il problema che lei pone del senso e del significato di questo, chiamiamo parco zoologico che accompagna l'imperatore, indubbiamente ha quelle due radici che lei diceva, cioè da una parte questa tradizione normanna e dall'altra questa tradizione imperiale che lei giustamente ricorda, si potrebbe far risalire a Carlo Magno che anche lui, se non mi ricordo male, aveva un elefante. Ecco, aveva l'elefante. Quindi questo va bene e questo ci porta, credo che si possa dire senz'altro, a intendere anche l'atteggiamento di un cittadino come è fra Salimbene, di un uomo di una città comunale come è fra Salimbene, di fronte a questo tipo di manifestazione, diciamo, della Herrschaft, se ho ben capito. In fondo, senza mancare di riguardo allo studioso grandissimo che è stato lo Schramm, lei giustamente fa ricordare che questo parco è un po' un Herrschaftszeichen di una singolare personalità, quale può essere da una parte il re di Sicilia con la tradizione vicina dell'Oriente e dall'altra quella imperiale. Ma direi che fra Salimbene, e questo è un'occasione appunto perché anche in parte lo notava il professor Campo, Fra Salimbene ci fa vedere come in fondo un uomo di un comune italiano reagisce a questa manifestazione di potere. In fondo reagisce, se leggo bene, se leggiamo bene, fra Salimbene, più sul piano della curiosità che non sul piano del, come dire, del potere. È un fatto strano che questo imperatore si tiri dietro tante bestie, i girifalchi e gli astori non ci meravigliano perché un buon nobile li aveva sempre con sé, ma certo tutte le altre bestie fanno impressione. In fondo reagisce, come in molti casi, con una certa, con un certo distacco. Nota, osserva, ma non rimane impressionato. Ecco che ti sembra. Sì, io vorrei aggiungere. È interessante comunque l'osservazione sua è veramente estremamente interessante. E questi animali possono avere, uno presi uno per uno, anche un particolare significato simbolico, e questo ce ne ricorderemo questa primavera a Spoleto quando parleremo di simbolismo. Vorrei ricordare, a proposito dell'elefante, che c'è anche la reazione di quel trovatore, è Guglielmo Figuera, mi pare, ecco, che anche quello rimprovera Federico di andare a spasso con l'elefante, questo grosso bestione che molti non se ne erano visti, di certo, proprio in un momento in cui avrebbe dovuto fare qualcosa d'altro. Lì allora si vede l'episodio, la curiosità dell'episodio. Questo io direi, che ci sono tutti e due i significati. Federico, nel portarselo dietro, aveva molto probabilmente questa volontà di magnificenza e voleva dispiegare anche questo tipo di Herrschaftszeichnis. Però, per l'opinione pubblica, c'è la reazione di Salimbene e anche quella di Guglielmo Figuera. Ecco, a questo punto vorrei domandarle, das in Befragen. Nelle cronache tedesche, se non ricordo male, perché potrei ricordare male, quando nel 1235-34 Federico va in Germania contro il figlio, se non sbaglio porta anche le bestie. E qual è la reazione delle cronache tedesche? Das für uns in diesen Sitz, in questo posto, in questo confronto di due mondi storici, se ci potete aiutare in questo senso. Noi abbiamo la reazione di Fra Salimbene, che li guarda con curiosità e poi ricorda questo assedio, no, questo elefante che porta il carroccio sulle sue spalle. L'elefante diventa il carroccio dell'imperatore, Herrschaftszeichen, in questo senso. Ma quando va in Germania, come ha se ci sono cronache che ne parlano? Sappiamo il fatto, ma non le reazioni. Die deutschen Politik oder die deutsche Politik haben als im 13. Jahrhundert kein Salimbene gehabt. Leider, ja, questo è vero. Als zweites, der Faktor ist registriert worden, in Deutschland registriert worden mit einer gewissen Fremdheit. Eigentlich unverständlich und doch zugleich in dem Begreifen, dass das eine Form der Majestät ist, der Majestät Imperium. Das ist doch wohl registriert worden, gerade das Missverhältnis zwischen dem Aufgebot des Kaisers und dem Anspruch zu herrschen, der dann in dem Mainzer Landfrieden auch verwirklicht worden ist. Insofern ist, glaube ich, doch das Traditionsverständnis noch angegeben. Ich möchte aber eigentlich zu seinem Bede noch etwas hinzufügen, denn seine Bede registriert dieses Faktum des Kaisers mit dem Tierpark, ja eigentlich nicht nur als Bürger, sondern er registriert es auch als Minorit, und zwar als Minorit, der erreicht ist von der eschatologischen Welt seiner Zeit. Denn der Elefant dient ihm ja gleichzeitig dazu zu zeigen, in welcher Weise die jetzt erlebte Geschichte durch die frühere Geschichte des Alten Testamentes verifiziert wird. denn er diesen Hintergrund nicht gehabt hätte, dass er im Grunde die exemplarische Funktion des Alten Testaments sich vor Augen hat, glaube ich nicht, dass er überhaupt in dieser Weise von den Elefanten gesprochen hätte und den Elefanten verglichen hätte mit dem Chaos. Wenn er also praktisch nicht das mit biblischen Taten anreichen könnte. Ich glaube, man muss diese Doppelwürdigkeit von seinem Wilhelm auch in diesem Zusammenhang sehen. Guardi, le dirò subito che lei ha toccato un problema il più spinoso di Fra Salimbene, cioè Fra Salimbene Bürger oder Minderbürger. Non entweder oder, ma Bürger oder Minderbürger. Oppure und Minderbürger. Io devo dire che non mi lascerei impressionare, in questo caso dell'elefante, non mi lascerei impressionare troppo dalle citazioni bibliche. Chi ha dovuto, come me, per dovere d'ufficio, in anni ormai lontani, poi molte volte per piacere mio, leggere da cima a fondo Fra Salimbene, comprese le citazioni bibliche tutte, ha l'impressione che le citazioni bibliche di Fra Salimbene procedono su un piano di associazione o verbale o visiva o immaginativa, direi non molte volte didattica, non molte volte eschatologisch oder sozusagen spirituell, cioè geistig. Questo è il punto. Ora, in questo passo, se non mi sbaglio, in realtà la cosa che più impressiona Fra Salimbene è la presenza dell'elefante e, per un uomo del Medioevo ed un cittadino, gli stendardi, il carroccio, il fatto che c'è al centro, se non mi sbaglio, uno stendardo, è vero? Magnum vexillum, cioè non è il ricordo del passo di Antioco Eupatore che gli serve per far vedere che lui sa bene la Bibbia e che conosce anche questo passo, è vero, dei Maccabei. Qui è meno importante, è solo una citazione ad pompam, è vero, Ipsius doctrine, della sua dottrina. Invece, in altri casi, sono perfettamente d'accordo con lei, abbiamo la citazione biblica del frate minore e dell'uomo di chiesa. Qui io vedrei di più il Bürger, il cittadino, che come è sempre rimasto Fra Salimbene anche quando vestiva gli abiti minori, il cittadino che reagisce nell'ambito di un mondo preciso, quale è quello nel quale egli in questo momento parla delle città. Comunque è giusto, non dobbiamo mai dimenticare che Fra Salimbene è Bürger e contemporaneamente un Dazu o Dabei è anche un Bürger und Minderbürger. Ancora qualche problema? Bitte. Mi preme due reine informative, perché in tre film è stato gesagt worden, dass er in Banca di Herrschaftszeit war und dass er hier der kaiserliche Macht und so weiter mit repräsentieren sollte. Wann wird der Elefant dienlich? mehr Mal da la situazione tragica di un traffico di vita di un cioè non sono immaginati, sono sì, però sarebbe interessante, insomma è un fatto marginale, ma sarebbe interessante di questo mondo di bestie vedere che cosa veramente gli uomini del Medioevo avessero visto. Bitte? Ja, dann gerade bei einer Zusatzfrage, ist es in Deutschland auch so, dass zur Stauferzeit Elefanten dargestellt worden sind? Sonst könnte man ja sagen, der Einzug Friedrichs nach Deutschland 1234 mit Elefanten muss wohl auch die Deutschen einen anderen Einzug gemacht haben als hier in Oeynhausen. La domanda è interessante, ma non so se, perché qui ci vorrebbero addirittura dei competenti di zoologia storica. Il problema è quello, è giusto, la domanda è molto interessante, anzi, se un giorno potremo risolverla sarà molto bello. La cosa è questa, che in Italia il tier park, diciamo così, il parco di animali che Federico II si portava e l'elefante hanno fatto impressioni. Che sia un'impressione più di cittadino o più di frate minore è un fatto, ma indubbiamente dovete fare più impressioni in Germania e se ce n'è qualche rappresentazione figurativa dovete dircelo voi, perché Auftritt eines Elefanten ist ja wohl bei Karl den Großen in der Vita Einhard, wo er einen Elefanten geschenkt bekommen hat. Aber ich darf vielleicht nur dies hinzufügen, wir können zu den Darstellungen auch nicht sagen, als aber die Vorstellung der Verbindung von Herrscher und Tierplanen ist in Deutschland nicht abgerissen mit dem karolingischen Kaisertum, sondern liegt auch von den Herrschern aus dem kaiserlichen Geschlecht, zum Beispiel in Hagenau und Gelnhausen, verwirklicht worden. Verwirklicht worden natürlich mit deutschen Mitteln, ohne exotische Tiere. Hagenau oder Gelnhausen? Hagenau und Gelnhausen. Es ist aber einfach gleichsam als eine herrschaftliche Tradition vorhanden gewesen, dass die Ausstattung einer Herrscherstadt, oder sagen wir besser, einer Pfalz, ein Tierpark hinzugehörte. Und zwar nicht nur zur Lustbarkeit, sondern zur Demonstration von Herrscherstadt. Ecco, un momento, devo spiegare perché noi italiani non sempre abbiamo dei ricordi, però il professor Kamp ricordava che i due grandi castelli degli Staufer, Hagenau e Gelnhausen, c'era anche lì la tradizione di un parco di animali, naturalmente non di animali esotici come quelli che portava Federico, cioè leopardi, dromedari, cammelli ed elefanti, ma degli altri animali che naturalmente si potevano trovare in Germania. E ancora una volta, non perché questi animali servissero a qualche cosa, ma come segno della prova del proprio potere. Io vorrei anche aggiungere una cosa, dopo diamo la parola a... Io vorrei aggiungere un'altra cosa, che anche i comuni italiani avevano degli animali. Sì. Avevano ne avevano perlomeno uno. La lupa non so quando usò a Roma di tenersela come, ma Bologna aveva un leoncino, aveva un leone, e nelle cronache registrò quando invece di un leone era una leonessa, nacque un leoncino, insomma. E anche a Venezia anche questa aveva un leone vivo, Firenze non so che animale avesse, ma le città avevano facilmente un loro leone in gabbia. Ecco, lì però... Qui il problema lega ancora di più al problema dell'Erschaft, sai? Appunto, perché questo animale molte volte entrava nel simbolo della città. E vorrei aggiungere una cosa più singolare. Un poeta moderno, Giovanni Pascoli, parlando di re Enzo, prigioniero a Bologna, diceva che re Enzo per Bologna era il suo forte leone in gabbia. Bologna non aveva bisogno di un leone per significare la sua potenza, ma aveva Renzo. Ora qui veramente sente il poeta moderno, sente il leone e sente Renzo, prigioniero, come simbolo della potenza della città, Herrschaft, Zeichnis, insomma. Di nuovo ritorniamo, in un certo senso, sì. Avesse anche questo degli animali tenuti in gabbia delle città, anche questo sarebbe un'altra cosina da guardarselo. Guarda quante ne vengono fuori. Alcune città italiane avevano in gabbia la bestia che avevano sullo stemma. Io adesso, per esempio, cercherò nelle cronache lucchesi di sapere se la pantera è stata mai a Lucca, perché Lucca aveva come nel design in Batman, aveva esattamente la pantera. Quindi. Prego, le abbiamo tolto la parola anche troppo. Cioè ci sono anche esempi in epoche successive. Allora, altri problemi? Oltre, prego! Eine kleine Frage auch zu der Geschichte. Frau Rolli hat ja kritisiert diese Art Frage, die die Gräfin von Caserta vorgelegt hat, in der im Grunde ja die Problematik der lombardischen Politik Friedrich des Zweiten etwas hellseherisch angesprochen wird. Und in diesem Sommer ist es doch wohl nicht ganz ohne zu fragen, wer diese Gräfin von Caserta ist, obwohl man im Wesen ja wenig nähere Angaben macht. Man könnte nämlich zwei Möglichkeiten aufzeigen. Entweder ist die Gräfin von Caserta, die hier angesprochen ist, eine Tochter des Zweiten gewesen, die mit dem Grafen Richard von Caserta heiraten konnten. Oder es ist gleichzeitig eine Wiedergeburt für das zweite Kind. Wenn ich die Mutter des Strafensichers vom Kaserner, die Wille wieder hat. Und ich glaube, dass einfach dieser Hintergrund, nämlich die enge familiäre Beziehung zum Kaiserhof, doch sehr wichtig ist, um diese, der hier als Anekdote, um den Kaiser herum berichtete Frage nach dem Sinn der nordbayerischen Politik richtig zu verstehen. Ich weiß nicht, welche Meinung Sie, Frau Versorgung, haben, mit wem man die Identifizierung hier vornimmt, aber ich glaube, dass eigentlich nur diese beiden Alternativen bestehen. Possono essere o la figlia di Federico II o un altro parente lo strettissimo, quindi si tratterebbe di un discorso di famiglia sulla politica. Questo si potrebbe essere. Io credo che questa, da parte di Fra Salimbeni, che nell'Italia meridionale mi pare che non ci sia mai arrivato, molto probabilmente ha sentito raccontare qualche cosa e ha detto da una donna e ha attribuito a questa donna il titolo di contessa di Caserta. Non oserei, insomma, volerla identificare. Ecco, è un riflesso così di un'opinione corrente e opinione anche espressa da una donna certamente altolocata. Non oserei, insomma, andare a fare delle identificazioni di questo personaggio. Lui non c'è stato mai, insomma, nel sud. Le informazioni dei frati minori però erano sterminate, infinite, insomma, ecco. Non mi porrei troppi problemi su questa signora. Cioè, tu rinunceresti, diciamo così, a identificarla in qualche modo, ecco. Io sì. Io sì. Dire, adesso io non ricordo se c'è ricordata altre volte, perché no. Salimbene prende un personaggio, lo lascia, lo riprende. Non mi pare proprio, perché è vero, questo rientra un poco in tutte quelle tradizioni novellistiche relative a Federico II che sono abbastanza frequenti e numerose. Avremmo potuto parlare anche di Federico nella novellistica e anche di Ezzelino da Romano nella novellistica. Sono due personaggi che ai novellatori sono piaciuti molto. Ecco, sì, continua. Cioè, no, non è che continuo. Cioè, la tua opinione sarebbe che noi ci troviamo qui più che di fronte a un fatto storico, di fronte ad una tradizione corrente che ha assunto l'aspetto dell'apologo novellistico, come il novellino, per intendere. Presso poco. Perché questa sarebbe l'ipotesi, insomma, per me. Anche il fatto che si potesse attribuire, forse anche che dietro c'era veramente un commento fatto da una donna altolocata. Questo può essere. La signorina si richiama a un fatto che, permettete non di spiegare, ma di ricordare ai nostri amici tedeschi. La letteratura italiana ha una grossa serie di kleine Anekdoten, di piccoli episodi che si riferiscono a personaggi storici e che in parte almeno riguardano Federico II. E un Federico II che è rappresentato, diciamo, come una persona singolarmente umana, non come il grandissimo imperatore, ma come un uomo col quale si può discutere e intervenire. Capisco, noi abbiamo questa grande raccolta e soprattutto il novellino. Ora, non è escluso, e almeno se ho ben capito l'opinione della professoressa Fasoli, che questo colloquio che Fra Salimbene ci riferisce, più che raccontare un episodio storico di cui si possa accettare la testimonianza precisa, possa essere riconducibile a questo Anekdotenschatz che correva in Italia. Devo dirvi che la posizione della signorina Fasoli mi sembra molto interessante, perché Fra Salimbene si muove in il giorno che dovremo studiare le fonti di fa far bene, staremo bene, staremo male, cioè, si muove su piani estremamente diversi, raccoglie dati sicuri, raccoglie dati riferiti, anche possono essere sicuri, raccoglie anche tradizioni correnti, tutta la parte, abbiamo qui il collega Turner che è uno specialista di questi problemi, ma tutta la parte che riguarda il primate e Ugo d'Orléans è un perfetto Durkheimander. Lui è stato aveva probabilmente notizia di questa poesia, è vero, e in Francia gliene hanno parlato e ha fatto un gran guazzabuglio, una grande Durkheimander, come direbbe un tedesco, perché ha preso, se non mi ricordo male, poesie dell'arcipoeta e le attribuite ad Ugo d'Orléans e ha combinato una confusione. Perché? Perché fra Salimbene, che è uomo di molte letture, non so se sei d'accordo, ma è però soprattutto un uomo di molta, come dire, di molta orecchio, di molto orecchio, che ascolta. E l'ascoltare non è il libro, non è la citazione. Quando lui ci dice, io ho sentito, come abbiamo trovato qui in queste pagine, io ho sentito questa profezia, ho visto la sibilla eritrea, io ho visto la sibilla cumana, ma non l'ho trovato, noi possiamo credergli assolutamente. I testi che lui ha adoperato, questo passo non lo avevano. Ma quando ci dice di avere sentito della contessa di Caserta, egli raccoglie una notizia o eine Anekdote, ecco il punto. Io direi che comunque rimane l'importanza di una voce corrente sulla preoccupazione di Federico e sulla possibilità che egli si sia accorto di avere con la guerra contro i Lombardi, come si suol dire in italiano, cavalcato una tigre e di non potere più liberarsi, di non potere più scendere. Comunque è interessante che il riferimento alla contessa di Caserta sia un riferimento, in questo senso le indicazioni del collega Camp sono certamente utilissime e pertinenti, certamente si riferisce a un discorso nell'ambito familiare, nell'ambito familiare dell'imperatore, cioè notizia esatta o aneddote si riferisce all'imperatore e al suo cerchio familiare. Questo sì. Ancora dei problemi? Prego. Come? Chiederei qualche aiuto, già ci troviamo in una riunione così rara. Un po' per le loro impressioni e quello che è successo a Trento nella storia locale dei tempi, perché vedo che i generali si danno dei giudizi piuttosto sommari. Si parla di una secolarizzazione avvenuta nel Stato di Trento ad opera di Federico II, semplicemente una totale soppressione del potere temporale tedesco. Si parla invece in altre formulazioni di una sospensione temporanea di questo potere che forse non era stato soppresso del tutto. Quello che vedo dai documenti è che nel 1236 c'è un documento chiarissimo in cui Federico II ordina perentoriamente al vescovo di Trento, che era vecchio e capire come quindi per alto quando ricorre una persona deve assistentare, simulare, comunicare nel dinamico modo ordinare alle tutte donne, le donne e gli sport, dietro a una sospensione dall'esercizio della supremazia culturale. Questo nel 36, nel 38, due anni dopo, lo stesso medico, però ancora esercita questi due compiti. Così nel 41, in una carta in cui il vescovo accetta il recupero di un feudo nel 41, è nominato un Bartolomeo de Alba, imperiali curie iudex ed assesso dominico degli eremiti del Tito, per Fridericum imperatore in podestà tridenti ed episcopale. Quindi poi una menzione di sottotitolo di Tito, podestà di Trento e del Vescovato, istituito come tale da Federico imperatore, che però se in questo momento si fa rappresentare in questo momento da un giude e da un assesso. Malgrado questo, nel 41-42 trovo ancora investiture esercitate dallo stesso vescovo. Nel 43 trovo invece investiture di tipo vescovile, conferite tasso del genio di Tito, potesta tridenti ed episcopatus per dominum Fridericum imperatore. Nel 47 muore Andrighetto ed abbiamo sede vacante. In questo tempo di sede vacante si riscontrano varie investiture conferite tasso del genio di Tito con la titolatura che dicevamo prima. Solo più tardi noi troviamo in una pergamena di fine del secolo XIII una considerazione generale che dice tempore sovegeri de Tito, potestati stridenti, nullus episcopus habebat regimen dominium ne potentiam dispecilitatis. Il che è contraddittorio perché vediamo che invece ci sono delle investiture di questo tempo. Predictus dominio sovegeri, stessi un regimen di tutte l'attento dei genoni che il vescovo successore. Il vescovo nella successione c'è stata però una qualche controversia, perché mentre da un lato viene nominato che il genone vescovo Gianni Bressanone, l'ultimo dei conti Cappiano, no? Abbiamo anche il tentativo di un altro vescovo Odorico di Porta, che non si sostiene e viene poi lasciato cadere da bambino. Nel 1202 il genone risulta confermato dal Papa dal 50 o dal 51, benché compaia vescovo di Trento dal 48, dall'anno dopo della morte del vescovo, però contestato da un altro vescovo, insomma, contemporaneamente insediato. Nel 1255 il genome si vede che ha preso possesso della città, almeno perché lo troviamo abitante in domo per cui domini sottigeni del Tito quondam potestati scriventi. Non credo si vede o è morto sottigeni del Tito oppure non c'è più, e il vescovo si è insediato nella residenza che sottigeni del Tito aveva eretto, là dove adesso c'è il castello di Bonfossi. E abbiamo con questo fatto il trasferimento della residenza, come dicevo l'altro giorno, della residenza vescovile dal palazzo vescovile di Castel vicino alla cattedrale alla casa fortificata che sono dei geni aveva costruito, ma che il genone ha. Parerebbe che qui tutto sia finito, invece le difficoltà più grosse cominciano adesso non con tutti i geni, ma con Esterino da Roma, che occupa parti del Principato di Trento, costringe in certi momenti il vescovo anche a emigrare dal genero. Ma già occupato. E allora che ruolo può aver avuto il genone nei tempi in cui abita in città? E non si comporta da subito da vescovo privato dei poteri del. Quindi c'è un partito, una doppia, insomma, una divisione, per cui anche parte di noi che agiscono sostengono il vescovo, altri sostengono. Ecco, a chiederei aiuto, ecco, perché questa prossimamente certi aspetti posso in parte venire incontro, per altri si siamo tutti pronti, se chiunque può, a portare il suo contributo. Vede, il problema, c'è un problema fondamentale in Federico II, che è nato dalla esperienza di cui parlava ieri sera la signorina Fasoli e che è ritornata stamattina nel ritmo di Codagnello. I veronesi chiudono la strada dell'abile. Per varie ragioni, non dimentichiamo che in questo momento non esiste ancora il San Gottardo, perché il San Gottardo non esiste ancora, gli Zeringen non hanno ancora reso possibile il passaggio. Quindi praticamente tra l'Italia e la Germania esiste la strada dell'Adige, che poi a un certo punto può essere anche, diciamo così, la strada di Coira, ma dopo di essere andati al di là di Trento. Quindi noi abbiamo questa situazione: per raggiungere la Germania, Federico deve controllare due città, Verona da una parte, Trento dall'altra. Fino a quando gli accordi con il papato funzionano abbastanza bene o non sono molto aspri, Trento a Federico II non preoccupa, preoccupa Verona, e fa in modo che, giovandosi del fatto che nel 32 Ezzelino da Romano è in Verona, lo rafforza, lo aiuta, nel 36 gli manda dei cavalieri, gli fa avere dei prestiti da Cremona, e Ezzelino si insedia stabilmente a Verona con una figura giuridica che io non saprei definire se non con quella che ci dicono le cronache, e che cioè da quel momento lo cominciarono a chiamare Domus. Vogliamo parlare di signoria? No. Penso italiano del termine, no? Questo è un problema. Comunque, Ezzelino, che è rimasto a Verona per tutto il tempo della vita di Federico II, e anche dopo, non importa andare al di là, Ezzelino esercita in Verona un pieno potere, senza una veste giuridica, nell'ambito di quella organizzazione di cui la signorina parlava ieri sera. Sono accennato appena, per forza, perché è troppo lunga. Ed assicura la via dei traffici tra la Germania e l'Italia. Ma tra il 38, 39 e 40 i rapporti peggiorano col Papa. Federico II non si fida né del vescovo da una parte né del duca d'Austria dall'altra, e allora sente il bisogno di avere in mano e praticamente con un colpo di mano Ezzelino, almeno le cronache italiane dicono che Ezzelino si impadronisce di Trento. Esso Degerio del Tito sembrerebbe, adesso Monsignore, io sono preso all'astrologista, quindi in questo momento non ricordo bene, ma se non sbaglio, Sodegerio di Tito è nipote o parente comunque di Ezzelino da Romano. È chiaro? Però la città di Trento e i dintorni non sono contenti di questa situazione. Perché? Perché Ezzelino da Romano, direttamente o indirettamente, aveva la mano pesante. Era un padrone pesante. E noi sappiamo, non ricordo bene adesso di quale anno, sappiamo che a un certo momento Trento si ribella e manda via Sodegerio e Ezzelino. Quali siano state le conseguenze per il vescovo di tutto questo, bisognerebbe accertarlo. Ma certamente c'è in un momento, io adesso l'anno non lo ricordo più, mi pare che sia presso poco dopo il Concilio di Lione, i cittadini di Trento buttano fuori questo potestà, stabiliscono l'autorità del vescovo, chiamano un altro vescovo, che cosa succede? Non lo so, perché in questo momento io credo che la soluzione del problema non venga dalla conoscenza generale della storia della regione, ma dalla storia interna cittadina. Se non mi ricordo male, è un momento in cui c'è una tensione tra città, tra popolo e nobili, come nel resto d'Italia, tra nobili, popolo e vescovo. E queste sono cose in cui bisognerebbe vedere gli archivi locali, ma non solo di Trento, che cosa rispondono. Io so che la mia risposta è estremamente incompleta, però direi che il punto fondamentale per interpretare la storia di Trento dal 1235 in giù è il fatto che Trento da una parte e Verona dall'altra chiudono la strada per raggiungere la Germania. E per Federico II la Germania è essenziale. Io credo che, per quella che è la mia esperienza della storia di Federico II, vista soprattutto dalla parte dell'Italia, è che per Federico II la Germania non è meno importante ed essenziale dell'Italia. Abbiamo a un certo punto posto persino la domanda: è più tedesco, è più italiano, sente di più la cultura, la tradizione arabo-normanna, o ricorda di più la tradizione sveva, Stauffer-sveva, diciamo. Io credo che questo sia un problema che abbiamo risolto nel senso di una personalità sovranazionale, ma una cosa è, a mio avviso, indubbia. Per Federico II la Germania è politicamente e militarmente e finanziariamente indispensabile. Non so dirvi fino a che punto dalla Germania, questo lo sapete voi meglio di me, arrivasse danaro, arrivassero uomini, arrivassero appoggi, ma è certo che specialmente negli ultimi anni la Germania aiuta Federico. Qui naturalmente bisognerebbe vedere, io non sono esperto della storia interna della Germania, ma questo è un problema che bisognerebbe vedere. In fondo ci sono degli anti, dopo la deposizione di Lione, ci sono degli anti-re, ci sono degli anti-imperatori, abbiamo ricordato Enrico di Raspe e Guglielmo d'Olanda, ma in realtà non hanno inciso nella, chiamiamola pure, fedeltà della Germania, come del resto, qui il collega Campo lo sa molto meglio di me, come io direi neanche nella fedeltà del Regno di Sicilia. Noi ci lasciamo impressionare dalle due, tre congiure, ma i sudditi di Sicilia sono rimasti lì. Al concilio di Lione, tranne due, mi pare, accusatori del Regno di Sicilia, uno è un vescovo che non mi ricordo mai di dove è vero, questo, in pratica le accuse erano portate dagli altri. E non dimenticate che a difendere l'imperatore c'era un vescovo, un arcivescovo. Quindi il rapporto, insomma, Federico aveva il senso di questa pluralità di stati nelle quali le vie di comunicazione erano importanti. Stamani abbiamo letto che Federico II si interessava della Savoia, del conte di Savoia, ma non dimenticate che i valichi della Savoia erano importanti per raggiungere il regno di Borgogna, il regno di Arlo. E allora, se vi ricordate, la preoccupazione di Parma non era, figuratevi a Federico II con Milano ribelle, se poteva o non poteva importare Parma, ma Parma importava perché significava per lui una delle strade più rapide per raggiungere l'Italia centrale, dove aveva città fedelissime come Pisa. Da Pisa a Pavia, per Monte Bardone, si arriva in un tempo perfettamente la metà, cioè se da Pisa dovete raggiungere la Romagna e dalla Romagna girando in alto attorno a Bologna dovete raggiungere l'Italia centrale, l'Italia settentrionale, cioè Trento, signore. Ecco, questo credo che sia estremamente importante come elemento di, come punto di riferimento, non risolvo la questione, ma come punto di riferimento Trento diventa uno dei posti chiave delle comunicazioni imperiali di Berlino. È proprio questo che noi nella questo è accanto, sinsi da vita in quest'anno, no? Wenn Sie haben einige Bemerkungen zu machen, wir sind frei, ist eine freie Diskussion und eine, ich meine, auch angenehme, freundliche Diskussion. An dich habe ich, glaube ich, da sehr viele zu sagen. Ich würde geografischen und gerade der Bedeutung der Verbindung mit Nachricht unterschreiben. Ich hätte nur eine andere Geschichte noch gerne eingeführt. Das Bistum Trent war ein Bistum des Reiches. Bistum? Ein Bistum des Reiches. Es gehörte als Bistum zum Imperium und der Bischof von Trent war ein Fürst des Reiches. Das macht es vielleicht etwas schwieriger festzustellen, warum ein kaiserlicher Beamter zum Prokurator oder Herr des Bistums bestimmt wurde, weil das nach den Verträgen, die Friedrich II. Mit Innocent III. Abgeschlossen hatte, nicht mehr möglich war. Ich glaube aber andererseits, dass die Grenzen gerade in der oberitalienischen Politik nicht so streng gezogen werden konnten, wie sie in der goldenen Bulle von Jäger und in den Versprechungen über den Kaisertum festgeschrieben worden waren. Und glaube, dass wir das Friedrich II. Gegenüber dem Bistum gleichsam eine weltliche Verwaltung für den territorialen Bistum eingesetzt hat. In jenem Forestat. Ich glaube, Rode Rüdiger von Tito oder von Tito. Ja, das dieser aber eigentlich ein weltlicher Verwalter des Territoriums war, wobei sich eben Episkopatus als territoriale Abgrenzung anbot, weil es anders für diese Abgesetzungen keine Beziehung gab. Parlando delle comunicazioni di Federico II, cioè della necessità delle comunicazioni fra l'Italia e la Germania, c'è un aspetto che è abbastanza interessante. La strada che Federico sceglie molto spesso è quella sul litorale adriatico. Rinuncia al passare attraverso all'Italia centrale. Si sposta sul litorale adriatico. A lui interessa quindi la marca di Spoleto, gli interessa la Romagna, gli interessa particolarmente Ravenna, perché da Ravenna può arrivare per mare ad Aquileia e poi avere le comunicazioni facili verso l'Austria, ma anche, credo, piegare un po' a sinistra e infilare la Valle del Piave, che deve essere una strada che lui ha seguito molto volentieri, anche se non ne sappiamo molto. C'è uno spostamento, mentre gli imperatori precedenti usavano molto volentieri i tratti, i valichi dell'Europa, dell'Italia occidentale, Federico II usa molto volentieri quelli dell'Italia orientale. E credo che abbia praticato la valle del Piave, quella lì, quella certamente. Credo che probabilmente qualche volta sarà risalito anche per la Val del Brenta grazie a Vizzelino. E questo poi sarebbe interessante, perché allora spiega anche perché a un certo momento, con tutto il resto della politica italiana, a un certo momento Federico non lascia la Sicilia, perché questo non sarà mai, ma Federico sposta il suo, come dire, l'interesse delle sue residenze verso la Puglia, perché la Puglia è, dal punto di vista delle comunicazioni, più facile ad andare in Sicilia, più facile a raggiungere l'Italia centro-settentrionale, la Germania e l'Adriatico. Quindi non è solo la bellezza della Puglia che attrae Federico, ma è anche, diciamo così, l'importanza della posizione geografica. Non a caso, l'altro ieri il collega Schaller ci ricordava che uno dei luoghi dove la cancelleria di Federico II ha risieduto più a lungo è stato tra Melfi o Foggia. Quindi, come vedete, gli elementi del nostro discorso lentamente si compongono e si ordinano. Professor Massarico Fabriale, lei voleva dire qualche cosa? No. C'è ancora qualche osservazione? Perché passali bene, nell'ultima parte dovrebbe creare, quando racconta i 10 motivi, voi li accettate senza critica? Mi riferisco specialmente non a noi meno giovani, ma a voi un po' più giovani. Questi 10 infortuni di Federico sono estremamente interessanti. Io allora mi permetto di rivolgermi direttamente al collega Dicce. Guardi, qui c'è per esempio un problema che riguarda addirittura questo problema della Chiesa primitiva. Qui il nostro buon Federico, il nostro buon Salimbeni attribuisce a Federico il desiderio di riportare la Chiesa alla Chiesa primitiva. Qui a Volvit suppeditare, dove diavolo, non ci vedo. Ci si vede malissimo. No, non ci vedo io perché non. No. Qui a Volvit suppeditare Ecclesiam, ut tam papa, quam cardinale ceterique porrelati, pauper sessent et bedite sirent. Et toc, non intendeva facere zelo divino, et quia non erat bene catholicus. Et quia multum erat avarus et cupidus, volebat avere divitias et thesauros ecclesiae sibi et filii sui. Qui c'è proprio il problema di tutto un momento della politica religiosa di Federico II. Qui è il modo con cui Salimbene vede la ecclesia primitiva, la vede da francescano, non più la vita apostolica di Gerusalemme, ma invece pauperes, essere pauperes e andare pedites, cioè la ecclesia primitiva è diventata l'ecclesia vista come un francescano. Stimmt ja überein mit der Forderung Friedrichs, die Kirche in den Zustand der Urkirche ihren Besitz nimmt. Welche Seite? Seite 498. Fiunder, sehen Sie, am letzten, secundum meius infortunium fuit, quando volit. 498. Das ist die Darstellung der Ecclesia primitiva, wie ein Franziskaner sich macht. Ja, das ist also ganz zweifellos die Entkleidung von wichtigen Besitz. Nicht? Natürlich unter diesem Gesichtspunkt als Minorit besonders interessant. Ich habe die Stelle nicht gesehen. Io mi accorgo, io vi devo chiedere scusa, non mi sono accorto che abbiamo fatto la mezza, e quindi specialmente i più giovani tra noi credo che in cuor loro protestino. Allora non mi resta senza aggiungere altro, non mi resta che ringraziare la collega per il suo lavoro di oggi, per aver accettato in primo luogo il nostro invito, essere venuta nonostante grossissime difficoltà personali e averci dato il piacere e l'utile della sua